It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Take a look at the 5 and 10. Venerdì 3 dicembre, bentornati di nuovo a tutte e tutti che ci seguite sempre su Liberi Dentro Eduradio TV, il nostro programma che fa da ponte tra carcere e città. Ciao Antonella, sempre qui con me in redazione. Ciao Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. E tra l'altro, come vedi, è anche cambiata la sigla in questi giorni, ci accompagnerà questa sigla di Bublé per tutto il mese di dicembre, che si collega anche all'iniziativa che stiamo sostenendo di aprire sempre una casellina del calendario dell'Avvento. E aprendola ogni volta abbiamo delle riflessioni che ci vengono sia dal carcere sia dall'esterno, e magari sono delle riflessioni che ci aiutano a solidarizzare anche con questo ambiente, questo quartiere cittadino che ci interessa, cioè non possiamo non dirlo, il carcere ci deve interessare. E quindi il messaggio di oggi è di Mario Biondi, tra l'altro, il cantante soul italiano, che saluta i detenuti. Vorrei lanciare un saluto affettuoso a tutte le persone che sono in questo momento recluse. E il mio saluto è di cuore, è forte, perché ho dei ricordi molto belli di tante persone mie amiche, con delle potenzialità e dei cuori e delle anime probabilmente imprendibili, perché alcuni di loro avevano tanta di quella forza che probabilmente avrebbero potuto fare rivoluzioni migliori di quelle che possiamo fare noi che siamo liberi e che molto spesso non abbiamo quella forza interiore che ci spinge realmente. E rieccoci dopo questo messaggio di Mario Biondi, riapriamo con le nostre notizie. La pena in bianco, leggo, nel limbo degli internati, nelle case di lavoro. È una notizia che traggo dalla Huffington Post a firma di Federica Olivo. Questo perché circa 340 persone in Italia sono ritenute socialmente pericolose dopo il carcere e finiscono in una terra di mezzo che ha quasi più problemi che soluzioni ed è quasi peggio del carcere. Ma voi vi chiederete cosa sono queste case lavoro che sembrano essere quasi peggio dell'ambiente detentivo. Esistono dal 1931, da quando è entrato in atto il codice penale Rocco, e le case di lavoro e anche le colonie agricole furono istituite con l'intento di riadattare gli internati alla vita sociale tramite il lavoro obbligatorio. Senti, ma c'è qualcuno che conosce meglio queste realtà e magari se sono veramente così drammatiche chiede che vengano eliminate? Chi le conosce meglio naturalmente sono le persone che le vivono e quindi le persone detenute. E la Huffington Post racconta la storia di Antonio, che è un nome di fantasia e oggi è uno dei 54 internati della casa di lavoro di Aversa. Ed è questa casa di lavoro una delle strutture in cui possono essere mandate persone che hanno già scontato una pena, ma che vengono considerate socialmente pericolose e per cui viene data a loro una misura aggiuntiva di sicurezza. La storia di Antonio, questo nome di fantasia, è quella di una persona comune in realtà, uscita dal carcere dopo 4 anni, alle spalle aveva una serie di reati, ma non gravissimi, ma che sommati l'uno all'altro facevano di lui un delinquente abituale, tra virgolette. Quindi gli vengono aperte le sbarre della prigione, ricomincia una vita, aveva un lavoro, era innamorato, aveva trovato una fidanzata e con la sua compagna addirittura aspettavano già un bambino. Di punto in bianco tutto si stravolge per Antonio, invece di guardare al futuro si ritrova a guardare nel passato e non perché accusato di reati nuovi, ma quel marchio di delinquente abituale diventa per lui un macigno quando si vede notificare un provvedimento che praticamente gli dice che resterà un delinquente per sempre, quindi doveva essere rinchiuso in una casa di lavoro. Non c'era chiaramente questo virgolettato che vi ho narrato nel documento che gli viene mandato, ma pazienza, se aveva un figlio in arrivo, se aveva trovato una fidanzata, se aveva trovato un lavoro, per lui si apre un'altra parentesi che è quella della casa lavoro. La procura chiede questo, il magistrato di sorveglianza in questo caso risponde di sì, e a pesare sul presente di Antonio non è più la vita nuova che si era creato con tanta fatica, ma la sua fedina penale è indubbiamente già macchiata. Ma chiaramente tante e tanti sono nella situazione di Antonio, in questi che dovrebbero essere i luoghi della rieducazione e della risocializzazione, ma che nei fatti non lo sono. E quindi anche il garante dei detenuti della Regione Campania ha chiesto, ecco, di eliminare queste case lavoro perché sono inutili. Quindi in questo modo mi stai dicendo che si può rimanere prigionieri oltre la pena? Si può per legge all'articolo 216 del codice penale, che qualcuno considera obsoleta, altri addirittura incostituzionale, eppure è ancora lì, e riguarda circa 340 persone che sono proprio gli internati nelle case lavoro. Sono ex detenuti al 41 bis, mafiosi, terroristi, ma anche per la maggior parte gente che ha alle spalle vari reati e viene ritenuta non adatta a vivere in società. Senti, allora quali soluzioni per chi viene ritenuto socialmente pericoloso dopo la pena? Ma allora, secondo Antigone, le case di lavoro dovrebbero essere abolite e una delle possibilità sarebbe invece dare una maggiore opportunità formativa, anche educativa, all'interno mentre le persone sono in carcere, e non aprire le case di lavoro, ma piuttosto accompagnare un percorso psicologico efficace che sia lì disponibile per aiutare la persona laddove c'è bisogno. E su questo sono d'accordo anch'io, sinceramente, e invito anche le persone, raccontateci cosa ne pensate, scriveteci redazionaliberidentro@gmail.com. Ma rimaniamo con una canzone prima di passare alle prossime notizie, Aretha Franklin, Chain of Fools. E rieccovi, bentornati dopo la pausa musicale. Antonella, il nostro venerdì, sempre un po' per avere notizie varie, riguarda gli animali. Ormai ce lo siamo dati come regola, perché non possiamo parlare della nostra realtà se non parliamo anche della natura e degli animali che ci circondano. E quindi l'altruismo animale, che cos'è? Allora Caterina, parliamo dell'altruismo animale attraverso una mostra che sarà aperta fino al 3 aprile del prossimo anno al MUSE, il Museo delle Scienze di Trento, che dà titolo Il dilemma dell'altruismo, che racconta attraverso fotografie e video sorprendenti degli esempi di altruismo, di collaborazione e reciprocità nel mondo animale. A che cosa serve l'altruismo in natura? Da questa domanda è nata questa mostra, curata appunto da Daniela Gentile e Gabriele Raimondi. Tra i protagonisti della mostra c'è anche la riproduzione in scala naturale di Coco. Ti ricordi Coco, la gorilla di pianura occidentale nata nello zoo di San Francisco, sì, che si prese cura del gattino come se fosse il suo cucciolo? Beh, certo. Ha fatto il giro del mondo questa immagine. Ed è realizzata in materiali siliconici. Da Quagga Wildlife Art. E la mostra rappresenta attraverso appunto foto e video fenomeni rarissimi, addirittura unici. È il caso del delfino con la spina dorsale malformata che nuota e socializza con un branco di capodogli, e del cucciolo di leopardo adottato da una leonessa, dalla femmina di orango fotografata in Borneo che mostra un gesto inaspettato di aiuto a un ranger in difficoltà. Un'immagine che anche questa, insomma, ha fatto il giro del mondo ed è diventata virale grazie alla potenza del suo messaggio. Alcuni video, le cui immagini sono state messe a disposizione dai ricercatori coinvolti negli studi, raccontano gli esempi delle cure mediche che le formiche matabele riservano alle compagne ferite in battaglia. documentate dall'Università di Würzburg, la collaborazione disinteressata tra pappagalli e cinerini, che ci arriva da Max Planck Institute, o gli esperimenti sull'empatia nei ratti dall'Università di Chicago. Ecco, tutti questi esempi che ci fai dell'altruismo animale dovrebbe essere anche di ispirazione per noi, che li chiamiamo animali proprio per far riferimento al fatto che sono interessati solo alla propria sopravvivenza, ma non è così. Eh no, Caterina, non è così, perché prendendo spunto dalla mostra scopriamo veramente gli animali altruisti, anzi scopriamo quelli più altruisti. Per esempio, crescere una nidiata è impegnativo. Immaginate crescere 4-5 pulli che chiedono costantemente cibo e i genitori devono correre avanti e indietro senza dare nell'occhio, perché non devono attirare i predatori e devono cacciare quanti più ragni, insetti e bruchi possibili. Non sarebbe meglio avere degli aiutanti? Certo che sì, e infatti molte specie di uccelli si avvalgono di aiutanti al nido, i cosiddetti nest helper. Uno dei casi più noti è quello dello scricciolo superbo, Malurus chaneus, un piccolo passeriforme australiano. Pensate che per questa specie mettere su famiglia funziona proprio in questo modo. Una coppia si riproduce, ma viene assistita in ogni fase da una serie di altri maschi o di altre femmine che sono appunto i nest helper, che si occupano di difendere il territorio, allestire il nido, nutrire i piccoli. I nest helper si comportano in modo altruistico, quindi è questo sotto gli occhi di tutti. Ma chi sono alla fine? Di solito sono altri scriccioli superbi nati nello stesso territorio, ma non necessariamente figli della coppia riproduttrice. Insomma, non è detto che siano tutti imparentati, che siano fratelli maggiori, ma in genere, insomma, qualche grado di parentela anche lontana c'è. Ma e altri animali, magari mammiferi? Abbiamo parlato una volta dei bonomo. I bonomo, che sono dei mammiferi, amano fare sesso e spesso risolvono così le situazioni conflittuali. Ma nella società matriarcale dei bonomo non è detto che il sesso sia sempre ben accetto. E se una femmina riceve delle molestie, la cosa non passa in sordina, anche se è una giovane proveniente da un altro gruppo, tra l'altro. Le femmine di bonobo durante l'adolescenza lasciano la famiglia d'origine e si conquistano il loro posto nei nuovi gruppi, ma vengono sempre difese dalle femmine adulte, anche se non appartengono direttamente alla loro famiglia. Se infatti una femmina giovane o di rango sociale inferiore viene aggredita da un maschio particolarmente insistente e a lei non gradito, le femmine più grandi e anziane correranno in suo aiuto, scacciando e umiliando l'aggressore. Le femmine anziane, dunque, si comportano veramente in modo altruistico, aiutano le più giovani indipendentemente da simpatie o parentele, però in realtà, se ci pensiamo, a guadagnarci non sono soltanto le nuove arrivate. Infatti, aiutando le giovani, le femmine adulte hanno più chance di guadagnarsi una buona nuora e trovare una compagna per i figli. Insomma, non saranno mica intelligenti questi bonobo. E per chiudere questo articolo sull'intelligenza e l'altruismo degli animali, ascoltiamo l'ultima canzone di Mario Biondi, Love is a Temple, e poi concludiamo anche la serie di interviste ad Adriano Moraglio, giornalista e scrittore che abbiamo avuto il piacere di ascoltare durante tutta la settimana. A tra poco. There's nothing that I can do. I've set my mind on you. The more others say you're not real, the more I believe I feel. I gotta reach out to you. I hold you someday somehow. But when my love dreams come true, Lord, no matter how and what it takes to be there, no fear that can be won by love. E siamo a venerdì e abbiamo sempre la nostra parte con l'ospite di oggi, che è già con noi da alcuni giorni, Adriano Moraglio. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, grazie a voi tutti, sono felicissimo di essere con voi. Anch'io e credo e sono sicura anche i nostri ascoltatori dalla casa circondariale Dozza, che tra l'altro volevo dirti, se ci scrivono a Liberi Dentro e hanno delle richieste per te, chiaramente io le girerò a te e poi tu, certo, risponderai. Volentieri. Dicevamo qualche giorno fa che appunto la passione per la scrittura è qualcosa che chiaramente fa parte di te, ma che condividi anche con tanti che magari ci ascoltano in questo momento, anche dalle camere detentive. E infatti, dopo che nel 2006 sei entrato per la prima volta al carcere Le Vallette di Torino, ti è venuta, come dire, l'intuizione di organizzare un corso di scrittura creativa. Ma qual era la finalità di questo corso? Puro divertimento, intrattenimento o anche altro? No, era di, diciamo, lo spirito era quello educativo, no? Quello di dare degli strumenti, di aiutare delle persone che manifestavano una propensione e un piacere a scrivere. E per quello che io avevo organizzato questo primo corso di scrittura creativa, proprio per dare degli strumenti e poi perché il mio amico Marco, con cui ero entrato in relazione e che mi aveva spinto l'incontro con lui ad entrare nel mondo del carcere, io avevo piacere che lui avesse degli strumenti in più, no? Per proseguire quella sua propensione allo scrivere. Lui aveva già fatto dei romanzi, aveva già fatto dei racconti. E considerate che Marco ha pubblicato due libri, ha ricevuto anche dei premi. È decisamente un talento. E io sono contento di aver partecipato allo sviluppo di questo talento. La ragione, carissima, era proprio questa. Come dire, contribuire a valorizzare delle capacità che cominciavano ad emergere nelle persone. Perché è questo quello che fa un insegnante, è quello di far venire fuori, no, delle capacità e di sostenerle, di favorirle, di migliorarle. Ecco, questo era l'obiettivo. E infatti proprio per questo organizzavate accanto al corso di scrittura creativa degli incontri monotematici per i detenuti. In che cosa consistevano? Cosa facevate? Ma noi, come dire, ci davamo un tema nell'anno attorno al quale sviluppavamo tutta una serie di appuntamenti. Poteva essere la presentazione di un libro, la visione di un film, l'incontro con, non so, con un imprenditore, con un regista, con un attore, uno scrittore, un educatore. Non so, per dire, abbiamo portato anche un malato di SLA, che tra l'altro era stato un importante medico in Lombardia, era stato anche assessore alla salute in Lombardia, una persona eccezionale che lasciò un segno indelebile, ecco, nelle persone che lo incontrarono. E poi portai anche amici come l'amico Walter, quello da cui è nata l'idea dopo la sua morte, l'idea di questa associazione di accompagnamento alla ricerca di lavoro. E io trovo ancora adesso degli amici che sono usciti dal carcere e che mi dicono: mannaggia, però che incontro che avevamo avuto col tuo amico Walter e sua moglie Marcella, perché loro facevano accoglienza familiare, no? E quindi avevano veramente impressionato tutti, no? Per questa loro apertura. In questi anni in cui attraverso il corso di scrittura avete potuto insegnare una passione, diciamo, a venire fuori anche delle capacità che magari già c'erano nelle persone con cui eravate a contatto. Ti sei mai chiesto se le persone recluse scrivessero più per se stesse o di se stesse? Io direi per se stesse, più che di se stesse, perché nel per se stessi c'è il fatto di, come dire, di riempire bene il tempo e nel medesimo tempo di riflettere, no? Di ragionare, di pensare. E quindi pensare a se stessi e a tutto il mondo. E io, ad esempio, ho conosciuto proprio in quest'ultima attività uno che è diventato un caro amico, ci scriviamo spesso, ci vediamo anche. Si chiama Marcello, Lui è uno scrittore di romanzi noir, ha già pubblicato e ha una storia molto complicata alle spalle, perché si è fatto una cinquantina d'anni di carcere. Quindi è passato attraverso storie di terrorismo, attraverso storie di rapina. È un uomo che ha vissuto in modo molto spesso la sua vita. E lui scrive bene, ha bisogno di essere un po' aiutato, sostenuto nella scrittura, però ha una creatività pazzesca, no? Adesso sta per uscire un altro suo libro. Quindi a me piace moltissimo accompagnare queste persone, aiutarle a pubblicare, no? In qualche modo. E quindi io il messaggio che lancio a tutti, se ci sono delle belle esperienze di scrittura tra voi che mi state ascoltando, vediamo magari di metterci in contatto. Potrebbe nascere l'idea di una collana con Rubettino dedicata a romanzi e racconti che vengono dal carcere. Perché no? Possiamo pensarci. Questo è un invito meraviglioso. Tra l'altro ogni anno facciamo al carcere della Dozza un concorso di scrittura creativa, sì. Quindi però con alcuni premi, quindi questa è un'altra cosa, tutta un'altra cosa, perché magari c'è la possibilità che qualcuno li legga da fuori. E prima di arrivare a questo, infatti, volevo chiederti se c'è qualche consiglio di scrittura che tu puoi, sì, dare alle persone che ci stanno ascoltando. Allora, il primo in assoluto è il consiglio che io sentii dire ai miei amici del Polo Universitario da uno scrittore decisamente noto che si chiama Giuseppe Culicchia. Lui è l'autore di quel libro, il suo primo, Tutti giù per terra, da cui ci fu anche il film. Lui è uno scrittore un po' particolare. Ma in quell'occasione dette questo consiglio, che è il consiglio che ho preso per me. Lui dice: quando leggete un bel libro, un libro che vi piace, fate così, copiatelo. Cioè, aprite il libro, c'è un capitolo che vi piace particolarmente, prendete un quaderno, una penna e lo ricopiate. No? Mentre lo ricopiate, entra nella vostra testa il suo modo di periodare, il suo modo di raccontare, e diventa vostro. E più scrivete copiando, più entrate nello stile di quello scrittore che vi piace tantissimo. Nel momento in cui andate a scrivere le cose vostre, utilizzerete, vi verrà da utilizzare quello stile, ma con la vostra personalità, col vostro stile, al punto che vi farete il vostro stile. Non sarà più lo stile del libro, per dire, di Giuseppe Culicchia, ma sarà il libro scritto da, poniamo il caso, il detenuto Adriano Moraglio, che ha letto Culicchia, ha imparato lo stile di Culicchia, ma nello scrivere trasfonde, ci mette dentro il suo stile. E se ci pensi, mia cara, è così nella vita. Cioè, noi abbiamo tutti bisogno di imparare, non so, a essere padri, a essere genitori, a essere scrittori, a essere amici, a essere... Dobbiamo impararlo da altri, perché è così nella vita. Un bambino piccolo impara a parlare perché sente parlare, no? È così, la storia del bambino è esemplare da questo punto di vista. Impara a fare tutte le cose perché ha intorno delle persone, dei contesti, delle realtà che non sono lui, che sono diverse da lui, no? Le nostre attività professionali sono così. Cioè, io quando ho imparato a fare il giornalista, ma io ringrazio il mio amico capo, che quando gli portavo, scrivevo ancora a macchina per scrivere, gli portavo lo scritto, la notizia, lui la leggeva, la guardava, prendeva questo foglio, accartocciava la mia cosa che avevo scritto e la buttava nel cestino, diceva: rifare, Grazie Giacomo che mi ha insegnato a fare così. Ho avuto bisogno di Giacomo, no? Per imparare a scrivere una notizia di un incidente stradale, per dire, no? E quindi l'esempio che vi ho fatto di Giuseppe Culicchia, copia il testo del libro che ti piace. Cioè, è la stessa cosa. Cioè, noi tutti abbiamo bisogno di imparare lo stile e il modo di fare, di essere degli altri, dentro il quale noi andiamo a innestare, man mano che cresciamo, man mano che diventiamo più maturi, innestiamo il nostro personale stile. Quindi il consiglio che do è questo qua. Per me è stato importantissimo. Che è un consiglio anche di umiltà, perché dobbiamo sempre ricordarci che partiamo tutti da zero e che abbiamo dei maestri magari davanti a noi e noi dobbiamo crescere sempre. Quindi è un bellissimo consiglio. Lanciamo l'ultima canzone, magari ci dici due cose su questa canzone, la canzone del melograno di Claudio Chieffo. Sì, allora questa canzone racconta, allora innanzitutto Claudio Chieffo la dedicò a Giorgio Gaber, questa canzone. Loro erano diventati amici e Claudio aveva piacere di raccontare a Giorgio che nella vita ci possono anche essere delle certezze, no? E infatti Gaber, Giorgio, lo criticava amabilmente dicendo che Claudio aveva delle certezze che lui non aveva, no? Ma lo diceva anche con un po' di invidia, tutto sommato. E certo, la ricchezza religiosa che viveva Claudio era l'elemento che caratterizzava la sua vita, no? E quindi lui desiderava comunicare a uno come Giorgio Gaber che c'è una speranza nella vita, no? Che c'è una strada possibile, no? E allora la canzone del melograno racconta di una casa, una piccola casa in una città con un melograno in fiore, dove c'è una madre che ti apre la porta e che ti dice vieni, entra, per raccontare a Giorgio che comunque c'è un Dio che ti aspetta in ogni momento, no? E che c'è una casa che ti può accogliere in qualsiasi momento. Grazie Adriano, ascoltiamola insieme, Claudio Chieffo, la canzone del melograno. Grazie e alla prossima, spero tantissimo. Grazie. Anch'io spero di sentirvi e di vedervi presto. Ciao! C'è un giardino nascosto che nessuno si può immaginare. Nel giardino c'è un melograno coi rami in fiore. E tra i sassi del muro nascono le viole. Devi dirmi dov'è questa casa dei fiori. Sempre che cerco la casa dove posso tornare. Amici di Duradio, siamo giunti anche oggi ai saluti di fine puntata. Vi ricordiamo le nostre rubriche. Oggi che è venerdì abbiamo Islam, religione e civiltà, e a seguire le sorelle in umanità che ci parlano del significato del Natale e anche del significato del presepe che nel mese di dicembre molti metteranno nelle proprie case. Poi sabato abbiamo le parole della parola a cura del cappellano del carcere Marcello Mattè, a seguire la rubrica Parliamo di buddismo con il monaco Seiyun e a seguire ancora Fare università in carcere a cura della professoressa Giovagnoli. Ma non è finita, perché ci sono anche c'è anche uno speciale Libri dentro per Natale con le fiabe dal mondo, quando le fiabe non sono per bambini ma per tutti. La domenica iniziamo con Yoga Ratna, un percorso di libertà, e a seguire l'intervista a Alessandro Aleotti, presidente del Brera Calcio, che appunto fa parte della nostra rubrica che abbiamo intitolato Calcio Galeotto. Grazie a tutti, scriveteci redazioneliberidentro@gmail.com e ovviamente un saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese, Enea Flacco e Diana Bota, e noi ci rivediamo lunedì per i nostri buongiorni. Grazie. It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.